7. Il volto di Johannes Takerioga, sachem del clan della tartaruga, era roccia millenaria, le fessure degli occhi incise da uno scalpello sapiente. L'anziano guerriero procedeva impassibile lungo il sentiero nella foresta. Joseph camminava al suo fianco, alla volta di Johnson Hall. Senza farci caso, passò il palmo su una guancia. Si chiese se il tempo avrebbe lavorato allo stesso modo sulla sua faccia. A Joseph il vecchio Sachem piaceva. Era stato un combattente di grande valore e un'autorità giusta e affidabile nelle controversie interne della nazione Mohawk. Inoltre, era tra i sostenitori più convinti dell'alleanza con i Johnson e la corona inglese. Uomo di poche parole, fargli da interprete era sciogliere un oracolo. Servivano immaginazione e intraprendenza, doti che a Joseph non facevano difetto. Da mesi non tornava alla roccaforte dei Johnson. Quasi un anno era trascorso dal funerale di Sir William. Non era facile abituarsi all'assenza del commissario, il grande patriarca, Warraghilla Gay. Più che mai, ora che i tempi si facevano difficili e le decisioni pesanti. Il dipartimento indiano aveva invitato Takerioga per discutere della ribellione. Sarebbe arrivato anche Piccolo Abramo, Sachem dei Mohawk di Fort Hunter. La mente tornò alla strada. Non mancava molto, poche miglia di cammino nella foresta. Dopo ore di silenzio, Joseph sentì il bisogno di una voce umana. Si rivolse al Sachem. «Cosa dobbiamo aspettarci da questa convocazione?» Johannes Takerioga proseguì, passo ampio e cadenzato. Trascorsero minuti. La risposta arrivò con un soffio. «Regali!» Joseph riuscì a scorgere un sorriso nell'immobilità del volto. Il lungo viale d'accesso a Johnson Hall brulicava di attività. Servi e operai trasportavano terra, tronchi, sacchi. Indiani e Highlander montavano la guardia all'imbocco del viale. Più avanti, gli alloggiamenti degli schiavi, inondati dal sole. Creature, poco più che neonate, si rotolavano in mezzo a cani e pollame. Donne nere cucinavano cibo, inseguivano bambini, sgobbavano o bucato. Verso il fondo del viale, altri indiani e scozzesi montavano una seconda e più nutrita guardia, fino all'ingresso dell'edificio principale. Dopo tanti anni, Joseph restava ancora impressionato dalla grande facciata, dal numero di finestre, dal colpo d'occhio del legno che sembrava pietra bianca. A lungo quella era stata la casa di sua sorella Molly, per quasi 20 anni governante e compagna di William Johnson, madre dei suoi ultimi 8 figli. Nel testamento Sir William non li aveva dimenticati. Aveva lasciato terra e beni in abbondanza. Anche Joseph doveva molto al baronetto irlandese. Si era occupato di lui fin da ragazzo, l'aveva fatto studiare, lo aveva assunto come interprete del dipartimento. Sulle scale dell'ingresso principale attendeva un nero, anziano, vestito di una vecchia livrea di panno. Con un cenno del capo indicò l'edificio adiacente, quello che Sir William anni prima aveva ribattezzato l'ufficio. Prima di entrare, Joseph si voltò verso Takerioga, che ricambiò, fissandolo, muto come durante il viaggio. Joseph pensò che la tartaruga non poteva aver miglior rappresentante.